incontrai una sera un vecchio clown. Era un povero uomo come me. Prese il suo violino e suonò per me. E con lui piansi ancora un po'. Non chiedeva soldi, ma lui viveva solo di carità. Mi guardò negli occhi e pianse per me, perché anch'io ero un povero come lui, perché era un vecchio clown, non credeva all'amore, ma quale amore, e mandava al diavolo voi nel vostro amore, l'amore, non esiste l'amore, ma quale, quale, quale amore? Non esiste l'amore, ma quale, quale, quale amore? Non credeva all'amore, ma quale amore? E mandava al diavolo voi e il vostro amore, l'amore. Non esiste l'amore, ma quale, quale, quale amore? Non esiste l'amore, ma quale, quale, quale amore? Non esiste l'amore, ma quale, quale, quale amore? L'amore, l'amore, l'amore. Non esiste l'amore, ma quale, quale, quale amore? Era un vecchio clown.